Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro terzo, versi 511-733. L'indovino Tiresia ha profetato con enigmatica esattezza il destino tragico di Narciso. La notizia di questa storia dà a Tiresia il lustro che merita nelle città della Caia. Giganteggia la sua rinomanza. Solo fra tutti il figlio di Echione e denigratore dei celesti, Penteo, irride i vaticini del vecchio, rinfacciandogli smacco e tenebre della sua cecità. E quello, scuotendo la testa incoronata di bianco, «Beato te se perdessi anche tu la luce degli occhi e non ti occorresse di assistere ai riti sacri di Bacco. Perché giorno verrà, me lo vedo non troppo lontano, che un Dio nuovo sarà fra di noi, il figlio di Semele, libero. E se tu non ti degnerai di fargli l'onore d'un tempio, sarai sbranato e disperso in mille pezzi, imbrattando di sangue i boschi, e tua madre e le sorelle di lei. Succederà, perché tu non ti degnerai di onorarlo, e ti roderà che nel buio io abbia visto fin troppo». Non ha finito di dire che il figlio di Echione lo caccia, ma i fatti convalideranno le parole e il presagio si avvera. Arriva libero e fremono i campi di grida festose, una gran baraonda di padri di famiglia e madri e sposine, gentaglia e magnati, spintona attratta da riti mai visti. «Si può sapere, figli del drago, stirpe di Marte, che furia vi rimbambisce?» grida Penteo. «Possibile che bronzi che cozzano bronzi e corni ricurvi e trucchetti da maghi vi facciano tanto effetto, che chi non tremava davanti a spade e trombe di guerra e squadre in assetto soccomba a urla di donne, ad avvinazzati dementi, a queste schifose marmaglie, a quei tamburelli ridicoli? Di chi devo stupirmi di più? Di voi vecchi che dopo tanto sbattervi in mare impiantaste qui Tiro e i penati fuggiaschi e vi arrendete adesso senza colpo ferire, o di voi, miei coetanei, d'età più gagliarda, che lance dovreste brandire, non tirsi, e mettervi in testa un elmetto, non quelle ghirlande? Da che razza di stirpe venite, ricordatevi, recuperate l'orgoglio del serpe, da solo ne ha sterminati tanti. Morto lui per difendere la sua fonte e il suo lago, voi tenuti a vincere per tener fede alla vostra fama. Forti quello ammazzava, voi dovete cacciar dei vigliacchi per onorare la patria. E se è scritto nei fatti che Tebe non duri a lungo, fossero almeno le catapulte e i fanti a spianare le mura nel boato del ferro e del fuoco. Saremmo infelici, ma senza colpa, sì, piangeremmo la sventura, ma senza nasconderla o dovercene vergognare. Ora invece Tebe si arrende a un giovincello imbelle, che non ama né fare la guerra né montare a cavallo, ma capelli che grondano mirra, ma coroncine da donna, ma vestiti di porpora tutti tramati di fili d'oro. Ora vado, se voi vi tirate da parte, e lo costringo a confessare un padre abusivo e indebiti riti. Ad Acrisio è bastato il coraggio di dileggiar questo finto dio e sbattergli in faccia le porte di Argo, ed io, Penteo, con tutta Tebe, tremeremo davanti all'intruso. Forza, dico a voi, servi, acchiappatemi il capobanda, legato dovete portarmelo. Non c'è tempo da perdere, è un ordine. Inutilmente suo nonno è Atamante e tutti i suoi cari sulla voce gli danno, tentando di dissuaderlo. Rimproveri e sforzi di farlo ragionare lo esasperano, gli monta la rabbia, opporglisi non serve a niente, anzi è peggio. Ho visto così, con questi occhi, un torrente scorrere languido e quasi senza rumore, non trovando intoppi, ma quando un tronco o un mucchio di pietre lo intasava, l'ho visto schiumare e bollire così, furibondo dopo l'ostacolo. Coperti di sangue ritornano i servi e al padrone che chiede dove sia Bacco, rispondono che Bacco non lo hanno visto. Abbiamo preso però un compagno, un addetto ai culti, e mostrano un tale con mani legate dietro la schiena, uno di razza etrusca, aggregato al corteggio del dio. Lo guarda Penteo con occhi feroci di rabbia e per quanto gli costi dilazionare l'esecuzione, tu che stai per morire, gli dice, e per dare con la tua morte un esempio a tutti. Dimmi il tuo nome, il nome dei tuoi, la tua patria e come mai pratichi questi riti inauditi. E quello senza turbarsi. Mi chiamo Acete, risponde, patria la Lidia. I miei genitori erano povera gente. Mio padre non mi ha lasciato né campi da arare con tori forzuti, né greggi di bestie da lana, né armenti di mucche. Povero pure lui, si arrangiava a sorprendere i pesci con la rete e con le coffe o tirandoli su con la lenza. Il mestiere era il suo capitale. Nel trasmettermi il suo mestiere, mio successore ed erede mi disse: prenditi tutte le mie ricchezze, e morendo non mi lasciò nient'altro che acqua. È l'acqua l'unico patrimonio che io possa vantare. Se non che, non volendo restare incollato sempre agli stessi scogli, la rotta d'un legno ho imparato a governare, a registrare con gli occhi le stelle della capretta Olenia che portano pioggia, le Pleiadi e l'Orsa e le Iadi e le case dei venti e i porti adatti all'attracco. Un giorno in rotta su Delo mi capita di rasentare le coste di Chios. Remando a sinistra approdo alla spiaggia e con un saltello affondo nell'arena bagnata. Consumata la notte, l'aurora già cominciava a imporporarsi, mi alzo, dispongo che mi si porti acqua da bere e indico il percorso per la sorgente. Quanto a me, dall'alto d'un poggio osservo quel che promettono i venti, richiamo i compagni e riguadagno la barca. Eccoci qua, grida Ofelte per primo, portandosi dietro lungo la spiaggia una preda, così la chiama, sorpresa in un campo deserto. Un ragazzo bello come una vergine. Quello sembra seguirlo arrancando appesantito dal vino e dal sonno. Osservo il costume, il viso, come cammina, e in lui non vedo nulla che lasci pensare a un mortale. Lo percepisco e lo dico. Che Dio si nasconda in questo corpo non so, ma so che in questo corpo c'è un Dio. Chiunque tu sia, sii buono, aiutaci nelle nostre fatiche e perdona anche loro. Non pregare per noi, grida Dicti, il più svelto di tutti, a salire in cima all'albero di Maestra e a scivolarne giù, aggrappato alle sartie. Tutti, Libis, il biondo Melanto, vedetta di prua, son d'accordo, e Alcimedonte ed Epopeo che gridando da pause e ritmo alla voga e incita i rematori, son tutti d'accordo con lui. La voglia di preda li acceca, ma io non permetto che carichiate la nave con un sacrilegio, grido, e qui chi comanda sono io, e sbarro il passo. Il più rissoso di tutti perde la testa, tal Licabas che, espulso da una città dell'Etruria, scontava in esilio una orribile strage. Tengo il punto, mi afferra alla gola col suo manone di ferro e mi avrebbe distrutto e sbattuto in mare se non mi fossi afferrato stretto a una cima, per quanto stordito. La ciurma abietta lo applaude. E a questo punto, Bacco, infatti era Bacco, quasi che tutto quel baccano lo avesse strappato al torpore e snebbiato dai fumi del vino. «Che fate?» chiese. «Che urlate? Dite un po', marinai, io qui che cosa ci faccio? Dove mi state portando?» «Tranquillo», dice Proreo. «Di tu in che porto vorresti sbarcare e noi ti sbarchiamo dove hai deciso tu». «Nasso», fa Libero. «Voi ora fate rotta su Nasso. Quella è casa mia. Voi sarete ospitati benissimo». Sul mare su tutti gli dèi giurano quelle carogne che eseguiranno e mi ingiungono di dar vela alla barca dipinta. Alla nostra destra era Nasso e a destra io metto la barra. «Che fai, cretino? Che cosa?» mi dice Ofelte, ti salta in testa e mi regge. «A sinistra!» mi fanno capire in molti accenni, altri all'orecchio mi soffiano disposizioni. Sbalordisco. «Il timone, sostengo, lo prende qualche d'un altro e mi sottraggo a un servizio da pilota e da criminale». Tutti mi coprono di insulti, mi rimbrottano tutti. E uno, Italione, mi fa: «Ma tu credi davvero, davvero, che la salvezza di tutti dipenda solo da te?» E prende il mio posto senza puntare affatto sul Nasso. Il Dio, come se dell'inganno non si accorgesse che allora, dalla poppa bombata, guardando il mare, li prende in giro e sull'orlo del pianto: «Non sono mica queste le spiagge, marinai, che mi avete promesso. La terra che vi chiedevo non è questa», fa, «marinai. Che male vi ho fatto? Che gloria sarà per uomini fatti e tanti ingannare un ragazzo?» Quanto a me, piangevo da un pezzo. Ma delle lacrime nostre l'empia ciurma ridacchia e crivella il mare coi remi. E ti giuro, proprio su lui, il Dio che non potrebbe essere più presente, che il mio racconto sarà adesso tanto più vero quanto più inverosimile. La barca si inchioda nell'acqua, come tirata in secco dentro un cantiere navale. Sbalorditi, quelli si ostinano a frustare il mare coi remi e a spiegare le vele, contando in un modo o nell'altro di muoversi. Ma l'edera si avviticchia ai remi, serpeggia annodandosi e sale a uberare le vele d'un festone di bei corimbi. E lui, con la testa inghirlandata di tralci e di grappoli d'uva, brandisce una lancia tutta fasciata di pampini e intorno gli si accovacciano tigri e labili spettri di linci e selvagge sagome di pantere pezzate. Gli uomini saltano su perché impazziti o perché atterriti e Medonte per primo comincia a annerirsi per tutto il corpo e ingobbire piegandoglisi a vista d'occhio la spina dorsale. Non fa a tempo Licabassa a dirgli: «In che mostro ti stai trasformando?» che già gli si slarga la bocca, il naso gli si incurva, gli si indurisce la pelle e si copre di squame. E l'Ibis, mentre si ostina a sbloccare i remi incastrati, si accorge che gli si stanno accorciando le mani, a tal punto che non sono più mani, pinne, andrebbero dette. Un altro, tentando di tendere le braccia a un cavo impigliato, non trova le braccia, si flette all'insù e scivola giù nelle onde col corpo mozzato. Ha una coda a falce, mai vista, che sembra inarcarsi come corna di luna crescente. Da tutte le parti si tuffano alzando grandissimi spruzzi, riemergono, tornano ad infilarsi sott'acqua e, impegnati in una specie di ballo, si dimenano lascivamente, schizzando fuori dalle narici il mare che inspirano. Di venti che noi eravamo, ne portava tanti la nave, io solo restavo, spaurito, gelato, col tremito in corpo, che quasi non connettevo. Ma il Dio mi conforta, dicendo: «Scaccia via la paura e in rotta per Nasso». Sbarcato a Nasso, ho aderito ai riti di Bacco e adesso li celebro. Abbiamo prestato orecchio alle tue interminabili chiacchiere, dice Penteo, per darmi il modo di sbollire la collera. E adesso servi a chiappatemelo e speditelo fra le più atroci torture nella notte di Stige, subito. E subito Acete l'Etrusco vien trascinato via, vien rinchiuso in un carcere duro, però, mentre quelli mettono a punto fiamma e ferri, strumenti per il supplizio in programma, le porte da sé si spalancano e senza nessuno che sciolga le catene, le braccia si liberano, così si racconta, da sé. Il figlio di Echione non molla, non ordina più che altri vadano sul Citerone dove le baccanti officiano i riti cantando e strappando l'aria di grida, va lui di persona. Come un cavallo fumante, quando la tromba di bronzo dà il segnale d'attacco, scalpita in foglia di guerra, Penteo così si sconvolge ai lunghi ululati che tracciano il cielo e il fracasso lo rende incandescente di collera. Quasi al centro del monte, tutto intorno orlata dal bosco, c'è una radura sgombra d'alberi a perdita d'occhio. Lì, prima a vederlo che guarda i riti con occhio profano, prima a ventargli si contro a corsa pazza, sì, prima a scagliare un tirso addosso a Penteo, sfregiandolo, prima è sua madre. Sorelle, sorelle, correte qui tutte e due, urla. Vedete il cinghiale enorme che trotta in radura? Io quel cinghiale lo ammazzo. E tutto il branco furente si precipita sopra quell'uno. Tutte le donne lo braccano, che trema e tremando adopera espressioni meno violente. E già si depreca, già si confessa colpevole e già ferito. Aiutami, zia, rantola, Autonoe, il ricordo di tuo figlio Ateone non tocca il tuo cuore, aiutami. Ma quella non sa chi sia Ateone e mozza il braccio teso a implorarla. L'altro glielo asporta Ino strappandoglielo. Non ha più nulla da tendere alla madre, lo sventurato, ma ostendendole i due moncherini del corpo amputato. Mamma, dice, guardami, mamma. Alla vista Agave caccia un urlo, mulina il collo, strapazza per l'aria i capelli, gli stacca la testa e stringendola fra dita zuppe di sangue, prorompe, compagne, compagne, è nostro questo trofeo. Le foglie intaccate dai freddi dell'autunno e appese appena ai rami, non le sparpagliano i venti, più in fretta di quanto quelle esecrabili mani sbranino il corpo di un uomo. Avvisate da questo esempio, le donne tebane frequentano nuovi riti, offrono incensi e supplicano altri altari.